Secondo libro delle Cronache, capitolo 14. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, del suo Dio, tolse via gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, spezzò le statue, abbatté gli idoli d'Astarte e ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei suoi padri, e di mettere ad effetto la sua legge e i suoi comandamenti. Tolse anche via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe requie. Egli costruì delle città fortificate in Giuda, già che il paese era tranquillo, e in quegli anni non v'era alcuna guerra contro di lui, perché l'Eterno gli aveva dato requie. Egli diceva a quei di Giuda, «Costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte e di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione». Perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo d'ogni intorno. Essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia, e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Zerah, l'Etiopo, uscì contro di loro con un esercito di 1.000.000 d'uomini e 300 carri e si avanzò fino a Marescia. Asa gli mosse incontro e si dispose in ordine di battaglia nella valle di Zefata presso Marescia. Allora Asa invocò l'Eterno, il suo Dio, e disse, «O Eterno, per te non v'è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, o Eterno nostro Dio, poiché su te noi ci appoggiamo e nel tuo nome noi siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno il nostro Dio, non la vinca l'uomo a petto di te». E l'Eterno sconfisse gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli Etiopi si dettero alla fuga. Ed Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar, e degli Etiopi ne caddero tanti che non ne rimase più uno di vivo, poiché furono rotti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito. E Asa e i suoi portarono via un immenso bottino, e batterono tutte le città nei dintorni di Gera, poiché lo spavento dell'Eterno s'era impadronito di essi, e quelli saccheggiarono tutte le città, perché v'era molto bottino. Fecero pure man bassa sui chiusi delle mandrie e menarono via gran numero di pecore e di cammelli. Poi tornarono a Gerusalemme.